Ci parla qua, chi dice no al male vincerà, anche se il mondo non lo capirà. Agatha, luce di libertà, ci insegna a scegliere la verità. Cuore forte in mano che dà, sei un'amica che ci guiderà. Tra le strade bianche della città, la tua storia ancora ci parla qua. Chi dice no al male vincerà, anche se il mondo non lo capirà. Con coraggio e con fedeltà, il bene sempre.